vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta anche oggi con This Is Not An Exit. Sarà veramente l'ultimo sabato per la stagione 2013-2014, sono anche finiti i mondiali, è finito il campionato, è finito un po' tutto, quindi che dire, c'è caldo, finiamo anche noi. Ultima puntata col botto, non li abbiamo ancora affrontati, parleremo di Nirvana, dai, insomma inutile tirarla, c'era uno dei gruppi più importanti di questo periodo che abbiamo affrontato durante tutta questa stagione, sto parlando 88-93, e loro cascano a fagiolo come tutti i gruppi di Seattle peraltro, ma chi era il portabandiera di, e grazie a loro poi esplosa di tutto, i portabandiera veri e propri di Seattle, di tutto il rock, di quei suoni, erano i Nirvana, ma i Nirvana erano anche molto molto altro, vero dottor Cason? Ciao, sì, ciao, ciao Babbe, ciao a tutti intanto, sì, vero. Infatti io volevo proporvi per questa puntata di provare a non parlare delle solite storie mainstream riguardo il Nirvana, cioè quelle della droga, del suicidio, della depressione eccetera, ma di provare a fare una ricerca un po' più specifica sulle canzoni nelle quali Kurt Cobain esprime sempre una certa politica che è quella dell'antisessismo. Tra l'altro bello che tu abbia fatto questo discorso sulla fine, sono finiti i mondiali, finita la stagione, perché ovviamente quella di Kurt Cobain, no, è una storia della fine, no? Si parla sempre di quello. Invece niente, io volevo portare all'attenzione appunto una tematica che col passare degli anni forse è andata persa riguardo il leader dei Nirvana. Ma forse è andata persa già allora, non so quanti se ne rendessero conto, non so quanti ne analizzassero i testi fino in fondo, la figura era talmente carismatica, la musica era talmente bella che... Sì, questo è vero, anzi, probabilmente, tra l'altro all'epoca non tutti i booklet dei CD avevano i testi, per cui magari poi prima usciva il singolo e non si aveva il testo sotto mano, no? Per cui molti testi venivano malinterpretati, perché sappiamo che con l'inglese, insomma, non è come con l'italiano, è più con la pronuncia si possono capire certe parole per altre. Vabbè, il caso più eclatante è stato quello di Smells Like Teen Spirit, in cui capivano all'inizio Load Up on Drugs and Kill Your Friends, cioè strafatti di droga e uccidi tutti i tuoi amici, invece che carica le armi e porta i tuoi amici, no? Che, quindi, invece che un incitamento alla rivolta, un incitamento alla morte e alla distruzione. Insomma, sì, quindi la questione dei testi, ovviamente. Figurati in Italia. Eh beh, in Italia ancora, sì, peggio. Ancora peggio, perché poi l'inglese ancora adesso è un problema, figurarsi alle 20 anni fa, insomma. Beh, li avrete riconosciuti tutti, grandi e piccini che siate, il sound dei Nirvana è inconfondibile. E io, nella mia dabbenaggine di adolescente, effettivamente, non è che io avessi mai pensato che i loro contenuti fossero impegnati o parlassero di omofobia. Sì, infatti abbiamo sentito questa canzone che si chiama Stay Away, proprio perché l'urlo finale, al posto che ripetere per l'ennesima volta Stay Away, dice God is gay. Infatti quello l'ho sempre capito, non l'ho mai capito. Ma questa cosa di God is gay viene da molto lontano nella storia di Kurt Cobain, e cioè da quando durante le scuole superiori subiva le vessazioni dei classici bulli, no? Kurt Cobain intanto non veniva da Seattle, veniva da Aberdeen, che era una cittadina di provincia, no? Quindi potete capire, che qualunque adolescente abbia frequentato una scuola di provincia può benissimo capire che il bullismo, no, è all'ordine del giorno per chi non ha un carattere esattamente normalizzato, diciamo. E bene, Kurt Cobain frequentava, aveva un amico forse trattato peggio di lui, e veniva per questa sua frequentazione schernito e preso in giro con l'appellativo di gay. Però contrariamente a quanto si potrebbe pensare rispetto alle reazioni di un adolescente, Kurt invece di cambiare frequentazioni e insomma cambiare modo di pensare, così fece suo questo essere gay, nonostante poi non lo fosse, no? Nei diari poi in realtà lui scrive: ma io in realtà probabilmente non sono mai stato gay, certo, un'identità sessuale piuttosto confusa, però io cominciai a dire di essere gay, a travestirmi da donna, eccetera, per rivendicare questa mia diversità contro l'omofobia dei miei compagni. E una delle cose che cominciò a fare fu quella di scrivere God is gay, Dio è gay, sui muri della città, e per questo venne anche arrestato, tra l'altro. Addirittura. Eh sì. Poi proprio finì in un testo. E poi, sì, poi God is gay ritorna nei testi di Nirvana anche, anche altre volte dal vivo, ripete questa frase anche cambiando il testo originale, la riprende spesso questa cosa. E adesso invece ascolteremo una canzone che parla appunto della sua cittadina di provincia, che era popolata da boscaioli, redneck si chiamano in America, no? Questi i contadini. Contadini sarebbero contadini, i villani. Si chiamano redneck perché hanno il collo rosso, no? Perché bruciato dal sole. Bruciato dal sole, che però sono notoriamente considerati conservatori e razzisti, quindi Kurt Cobain se la prende con questi. Your mind. Siete sempre su This is not an exit, Radio Città del Capo, lo dico, lo ribadisco perché stranamente presentiamo i brani, cosa che facciamo molto molto di rado, però oggi, visto che avevamo un argomento sul quale tutto, dico tutto, ormai è stato sviscerato in questi ultimi 20 anni, e sono 20 anni che il buon Cobain ci ha lasciato, partiamo da quello che dovrebbe essere scontato, cioè l'analisi dei testi. Invece non è scontato. No, non è scontato, perché cioè, in Nirvana sono sempre, chiaramente sono passati alla storia come un gruppo ribelle, alternativo, così, ma più per la rabbia estetica che esprimevano sul palco, e per anche musicalmente estetica, l'uso del distorto molto potente, cattivo, diciamo, che per i testi, no? Per cui i testi in realtà sono sempre stati un po' in secondo piano, a parte le cose proprio eclatanti, no? Tipo Rate Me, poi parleremo anche di quella. Però in effetti sì, i testi sono sempre rimasti un po' in secondo piano. Questa era Stain, che è contenuta su Insecticide, l'album di mezzo, diciamo così. E no, abbiamo messo in scaletta perché è una canzone che parla delle lamentele della famiglia di Cobain verso di lui, no? E tra queste frasi c'è "he never fucks", cioè non porta mai a casa una ragazza, no? E per cui già questo è un atteggiamento sessista verso un adolescente, fallito, perché non tromba, no? Per essere un po' volgare, visto che proprio nel testo dice "never fucks", non è che non media mica tanto. E appunto, quindi questa spiccata sensibilità, diciamo, che acquisisce Cobain, in realtà gli viene anche un po' dall'esterno, come autodifesa, come creazione di una propria personalità, non tanto per affermare un suo certo modo di percepire l'amore, il sesso, il rapporto con l'altro sesso o con l'altro in generale, più correttamente diremmo, ma soprattutto come autodifesa da quello che subisce durante quest'età. Già Cobain probabilmente si può dire che da adolescente si trovava in una condizione di marginale. Sì, assolutamente sì, nonostante però cioè attenzione, sì, marginale, emarginato. Per come possiamo intendere la marginalità nella società contemporanea, cioè estremamente diffusa, eterogenea, perché in realtà poi nelle biografie vediamo che non è estremamente povero, non ha una famiglia particolarmente violenta, ha una vita abbastanza mediocre, normale, diciamo, ma che è pervasa poi da questi momenti critici che attraversano la sua adolescenza e quindi poi vengono fuori alla lunga. Comincio a capire perché uno dei suoi eroi era King Buzzo, che veniva dalla sua stessa scuola, dalla stessa cittadina Aberdeen, e anche King Buzzo non poteva farci nulla perché freak lo era veramente ed era già suonava. Eh beh, certo. E infatti Melvins, King Buzzo è il cantante, chitarrista di Melvins, erano uno dei suoi gruppi preferiti. Tutto più chiaro. Possiamo mettere una canzone a questo punto di Nevermind, una delle più famose, che è Territorial Pissings, dove c'è proprio una delle frasi anche poeticamente più belle: Never met a wise man, if so it's a woman. Non ho mai incontrato un uomo saggio, e anche nel caso era una donna. Questa era Territorial Pissings, famosissima, che apre anche un altro punto di vista, cioè quello del sarcasmo su Nirvana, perché la frase iniziale urlata da Chris Novoselic, che è il bassista, è un richiamo, un inno all'amore, no? Stiamo tutti uniti, scopriamo l'amore tutti insieme, ma è chiaramente una frase ironica, perché i Nirvana non sono mai stati, diciamo, il gruppo Peace and Love, nonostante sia Kurt che Chris avessero fossero fan di molti gruppi dell'epoca hippie. In realtà poi loro però non erano hippie, non erano affatto hippie. Questo sarcasmo lo ritroviamo in un aneddoto molto interessante, che è quello del famoso litigio con i Guns N' Roses. Famoso perché Kurt e Axl Rose quasi vennero alle mani agli MTV Music Awards del 92, Però anche qui c'entra il sessismo, perché Axl Rose era un grande fan dei Nirvana, gli piaceva molto la loro musica. Per questo chiese loro di farli da apripista al nuovo tour. Kurt Cobain disse: no, manco morto, io con dei fascisti come voi non ci suono. Al che diciamo che Axl Rose cominciò a dubitare di questa sua passione. E, non che fosse un personaggino comodo neanche Axl Rose. Assolutamente no, infatti quando si incontrarono nei camerini Carney Love chiese Axl Rose rilasciò delle interviste innanzitutto in cui diceva che Kurt Cobain e Carney Love erano dei drogati e che avevano continuato a farsi anche mentre Carney aspettava la bambina, e che quindi avrebbero dovuto togliere loro l'affidamento, è cosa che poi infatti avvenne. Al che quando si incontrarono nei camerini, Corney chiese ironicamente a Axl Rose: non è che vorresti farci da padrino? E allora lui diciamo che non la prese bene, e però ignorando, qui vediamo come Kurt Cobain probabilmente avesse ragione su Axl Rose. Lui si girò verso Kurt Cobain ignorando completamente Corney e gli disse: fai tacere la tua puttana oppure t'ammazzo. Cioè, quindi diciamo che il fatto che la ignorasse completamente, le desse della puttana, può essere abbastanza definito come sessista. E quella serata si concluse poi con un tentativo del bassista dei Guns N' Roses, Dave McKagan, nel tentativo di coinvolgere Chris Novoselic in una rissa con le guardie del corpo di Duff, che poi però Chris risolse, che è alto 2 metri, è il musicista più alto vivente tra l'altro, no? Risolse la cosa dicendo: guarda, se vuoi ce la vediamo io e te. E poi alla fine nulla di fatto, insomma. Però diciamo che insomma, ecco, l'odio diventò sempre più grande tra le due band, che avevano 2 background culturali estremamente diversi. A parte MTV. Sempre This Is Not An Exit, ormai siamo al giro di boa per quest'oggi, puntata su Nirvana, ma stavamo parlando dei diverbi, chiamiamoli così, tra il buon Axl Rose, tanto buono non era, anzi abbastanza mattacchione diciamo così, e spero non dire pazzo, e insomma Kurt Cobain che cercava di far valere le proprie idee anche al di fuori dell'ambito strettamente musicale, cose da gangster rapper. Sì, certo, beh, non era un buonaccione neanche Kurt Cobain, era molto più ironico e sarcastico, ma diciamo che non era facile volergli bene comunque. Lo scontro era ad armi pari. Non le mandava a dire. Sì. Abbiamo visto questo video perché... Sì, scusate questo video. Abbiamo ascoltato questa canzone perché nel video di Don't Cry c'è Axl Rose sul lettino di una psicologa e al suo fianco ha un cappellino dei Nirvana, quasi a dimostrare che la sua... lo mette in difficoltà questa sua passione per un gruppo che invece lo odia personalmente fino alla morte, no? Parlavamo di background culturali diversi. Beh, basti pensare all'adesivo che Kurt Cobain aveva sulla chitarra, famosissimo, no? Vandalism, beautiful as a cop, as a stone in a cop's face. Vandalismo, bello come una pietra in faccia a uno sbirro, praticamente, no? Che però è un riferimento... reinterpretato in chiave estremamente anarchica da Kurt Cobain, è un riferimento all'adesivo che aveva, alla scritta che aveva sulla chitarra Woody Guthrie, famosissimo cantautore comunista statunitense della prima metà del Novecento, sulla cui chitarra aveva scritto "This machine kills fascists", questo è famosissimo, no? E a proposito di queste influenze che Kurt Cobain aveva, che sarebbe bello tra l'altro vedere in quali momenti Kurt Cobain si fa una cultura così ampia, perché poi anche nelle interviste dimostra di essere molto colto, no? Però non si capisce bene quand'è che ha avuto questa svolta quasi intellettuale, non proprio intellettuale, ma insomma molto profonda. E su In Utero troviamo una canzone, una delle mie canzoni preferite tra l'altro, che si chiama Francis Farmer Will Have Revenge on Seattle, che è dedicata appunto all'attrice di Hollywood Frances Farmer, che fu vittima dell'internamento in una clinica psichiatrica, fu continuamente seguita dall'FBI per sue possibili simpatie comuniste. Insomma, Kurt Cobain dedica canzoni a queste persone, a questi riferimenti, contrariamente invece ad Axl Rose, che fa sfoggio, no, del machismo sul palco. E Kurt Cobain lo vede proprio come un nemico, il nemico numero uno. Si vede che qualcosa della cultura hippie dei 60s, magari tramite i suoi ascolti e le sue passioni musicali, gli era passata, chissà. Qualcosina sicuramente. Yes, I'm relieving, now that you're leaving, soon as you can pay. Yes, I'm relaxing, hear that you're resting, let me get you away. Yes, I'm soothing, now that you soothe me, soon as you sound the same. Come for me. Sempre This Is Not An Exit, sempre in compagnia del dottor Cason, che ci sta parlando diffusamente dei temi politici presenti nei testi, scusate, dei Nirvana. Io onestamente da ragazzino ovviamente li avevo snobbati, concentrandomi soprattutto sulla musica, poi come dicevamo complice il fatto che il mio inglese era quello che era, insomma non era proprio scontato, poi i testi insomma non sono proprio lineari, non sono i testi di Woody Guthrie che abbiamo citato prima. No certo, no, non sono testi direttamente impegnati, sono tutti fatti, è una scrittura molto ermetica, fatta tutta di frasi, raramente nei testi c'è un'evoluzione, una trama, una storia come in un altro tipo di poetica presente comunque nella storia del rock. Sono testi molto poetici, diciamo, per cui tutte frasi molto, molto definite, che possono stare benissimo da sole l'una con l'altra, ecco. Stiamo sempre parlando di Nirvana, siete sempre su Radio Città del Capo. Nirvana, che erano un gruppo pop ormai, questo qui era In Utero, quindi un disco ormai della fine del 1993, ultimo disco per loro. poi di lì a poco sarebbero andati addirittura a fare l'Unplugged in diretta su MTV. Cobain era già abbastanza provato, e chi lo vide in concerto anche da queste parti venne a Modena all'inizio del 94, l'aprile o il marzo del 94, vide un concerto con una persona che era al massimo del successo, con un gruppo che vendeva milioni di dischi, eppure si vedeva che non era esattamente una persona che stava bene. Infatti di lì a poco stette male a Roma, pochi giorni dopo, e poi il tragico epilogo, ma stiamo parlando d'altro. Vero, infatti l'Unplugged è diventato famosissimo anche per l'anima che ci mette Cobain nel cantare, ma anche qui, da vecchio fanatico, vi do un'altra chicca, perché se cercate, dovrebbe esserci anche su YouTube il video integrale della registrazione di Unplugged di New York. Ci sono i tempi morti nei quali, tra una canzone e l'altra, in cui riassestano il palco, eccetera, e in cui vediamo che il sarcasmo di Cobain però è rimasto intatto, fa battute a tutti, dai muovetemi, tanto siamo in televisione, chi se ne frega se ti devi accordare, tanto poi ti mettiamo a posto, cose così, no? Sfotte Chris Novoselic, sfotte MTV. Nei tempi bui, insomma, ci sono delle chicche che per i fanatici sarebbe interessante vedere. A proposito di Chris Novoselic, una cosa da ricordare, tutti sanno che dopo i Nirvana lui si è diventato un attivista politico molto impegnato, ha organizzato i primi appuntamenti contro il WTO di Seattle nel 98, la famosa battaglia di Seattle. Però già all'epoca dei Nirvana si interessava delle tematiche pubbliche, e dato che lui è di origine croata, nel 92 impegnò i Nirvana per organizzare un concerto per le vittime delle violenze sessuali in Bosnia, perché era appena scoppiata la guerra, no? E date le sue origini aveva ovviamente molto a cuore questo tema. Kurt Cobain ovviamente accettò di buon grado, visto che si trattava di un'iniziativa appunto contro lo stupro, per la quale in Nirvana ha scritto una canzone molto bella, che è Polly, che adesso sentiremo. Polly wants a cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope? Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. myself, got some rope, haven't told, promise you, haven't true, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself. Ma mi dica un po', mi tocca una curiosità, dottor Cason, ma come fa a sapere tutte queste cose su Nirvana? Ma perché quando avevo 14 anni a un certo punto sono impazzito completamente per Nirvana. Io avevo 14 anni nel 98 però, quindi un'epoca dopo. Però ho un fratello che ha 11 anni più di me, per cui in casa avevo tutti i dischi, lui che si è vissuto questa cosa. Io non mi sono vissuto in tempo reale l'epoca Nirvana. Ma però il poi mito sopravvissuto, era sopravvissuto. Sì, attraverso i dischi, attraverso i racconti. Sì, dopo io mi ricordo che ho vissuto un anno completamente impazzito per il Nirvana, ho letto mille biografie ufficiali, non ufficiali, ho imparato a suonare suonando le canzoni di Nirvana, cioè ero proprio fuori di testa. Ah, adesso vabbè, ci procuriamo subito una chitarra e il dottor Cason ci improvvisa. Cosa facciamo? Come as you are. Vabbè, guarda, è ovviamente una, come tutti i ragazzini, una delle prime canzoni che si imparano. Soprattutto i bassisti. Comunque, a proposito di violenza sessuale, visto che abbiamo appena finito di ascoltare Polly, che è la storia di questa ragazzina che viene seviziata, c'è poi un'altra canzone che si chiama proprio Rape Me, che è una delle più famose, che fece scandalo già solo per il titolo, venne mal interpretata all'inizio quando ancora non si sapeva di che cosa parlasse, venne MTV la censurò, in Nirvana proprio in quella Awards in cui litigarono con i Guns N' Roses fecero l'attacco di Rape Me solo per infastidire i dirigenti di MTV. Bene, Rape Me però, il titolo è estremamente ironico, è estremamente provocatorio, perché è una canzone ovviamente contro lo stupro, e invita l'aggressore, no, ad andare più forte, perché poi tanto te la farò pagare io. Quindi sarebbe interessante anche vedere il rapporto ovviamente sempre parlando a livello teorico, il rapporto che hanno in Nirvana con la violenza, perché questo femminismo di Kurt Cobain in realtà sì, però poi non è non violenza, cioè hanno sempre mantenuto un certo background punk aggressivo, no? E infatti anche questi testi poi in realtà sono testi di vendetta, non solo di dolcezza e di disperazione, sono proprio testi che invitano alla rivolta anche proprio contro la violenza sessuale. Non era solo resistenza, era reazione. Sì, sì, assolutamente sì. Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again. I'm not the only one. I'm the only one. I'm the only one. I'm the only one. altro pezzo forte assolutamente da conoscere, immagino che tutti quelli che abbiamo già messo probabilmente li conoscevate già. Questa però è una canzone, la prossima che ascolteremo, che non è stata pubblicata su nessun album, venne incisa durante la registrazione di In Utero e inizialmente il suo titolo era Virtuous Verse, che doveva anche essere il titolo dell'album. Poi la canzone stessa finì fuori dalla tracklist, quindi l'album cambiò nome. Cambiò nome anche la canzone, è stata chiamata poi Seppi. E decidete voi che cosa critica: o il matrimonio, la famiglia tradizionale, o la Chiesa cattolica che promuove i pregiudizi sessuali, una di queste due cose, o magari tutte e due, o sicuramente tutte e due, perché il ritornello dice "Now you're in a laundry room", e adesso, bene, adesso che hai fatto di tutto per accontentare il tuo uomo, guarda, sei in una lavanderia, sei in una gabbia. Decidete voi qual è questa gabbia. Va bene, con questa chicca finale chiudiamo per davvero questa volta, non stiamo scherzando, questa stagione di This Is Not An Exit. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici soprattutto. Beh sì, non potevamo mancare. Sto scherzando. Grazie, ma perché? Grazie per la pazienza e a risentirci, boh, che diciamo, settembre, ottobre o giù di lì. Ciao a tutti. Ciao ciao. You will make him happy.